Muoviamoci, sta per cominciare. Sigla? Doppia sigla. Radio Plaza. Con molto piacere. Comincia adesso. A fra poco. Buoni ascolti, Radio Plaza. Radio Plaza. Dai, spacca, spingi. Spingi, spingi, spingi. Tutte le mattine, dai, spacca, spingi. Fai già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Free, free, Balsai. Come? Free, free, Balsai. Agli assassini per dormire ora serve il fentanyl, perché i morti tornano di notte come Fedain. È un po' tardi adesso per godere dei tuoi sogni, occupante nazi della casa che era dei suoi nonni. Rivoluzionario questo tempo, sparo dopo sparo. L'hai capito da che parte stare, è tutto più chiaro. Bambini in fila per il cibo fatti a pezzi, giornalisti uccisi per gridare al mondo siete mostri. Per la terra, per la libertà, per il ritorno, per la Palestina libera come era un giorno. I miei boss sono all'attacco per forzare il blocco. Anch'io sono in cammino, altrimenti sbrocco. E questa flotta va, questa lotta fa venire il desiderio di averla anche per noi. La libertà prendetela sul serio. Non saremo mai zitti e indifferenti. A vedervi nelle strade siete commoventi. Non vi lasceremo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Alto sulle piazze fra le vostre tende, non ci arrenderemo mai. Ogni popolo del mondo tiene alta la bandiera degli oppressi. E la notte rossa, bianca, verde e nera. Piovono le rime come piovono le bombe, linee di confine tratteggiate tra le tombe. Abusi in uniforme, un popolo che corre, il popolo sostiene e il mondo attorno dorme. Piovono le rime, so concime per i sogni, sogni di libertà che diventano germogli. Di resistenza siamo tanti, siamo ribelli, siamo la comunità, toglietevi i cappelli. Piovono le rime perché noi siamo così. Piovono le bombe perché moriremo qui, nel posto in cui noi siamo dall'inizio, prima del precipizio, prima che arrivassero i coloni. Piovono le rime, sfidano le bombe per la terra, per la libertà e il ritorno, per la Palestina, giorno dopo giorno fino all'ultimo respiro e ci sentiamo in forma. Non vi lasceremo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi come un sole che risplende. Alto sulle piazze fra le vostre tende, non ci arrenderemo mai. Ogni popolo del mondo tiene alta la bandiera degli oppressi. E la notte rossa, bianca, verde e nera, non ci arrenderemo mai. Fino all'ultimo respiro noi saremo insieme a voi. Giustizia per il popolo. Tu vuoi che deponiamo le armi? Come potremo conservare la terra se siamo disarmati? Ma non è così semplice. C'è la questione del tempo. Tempo! Può prendere tempo chi fa le leggi, ma per un contadino c'è il tempo della semina e il tempo della mietitura. E non puoi seminare in tempo di mietitura. Radio Plaza es la hostia. ¡Ale con ello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches al pueblo de México y al mundo. compañeros, compañeras zapatistas, presentes y las que no están presentes, compañeros, compañeras de México y del pueblo del mundo, hermanos, hermanas del pueblo de México y del mundo. Sean bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Queremos dar nuestra palabra para dar comienzo a nuestro encuentro de compartición de nuestras luchas y prácticas por la vida en cada geografía y anticapitalista. Porque el capitalismo está en todos los rincones del mundo, que destruye a todos los seres vivos. Hoy, en una de las partecitas de esta tierra, están haciendo un genocidio el sistema capitalista contra el pueblo de Palestina. No podemos olvidar, no podemos dejar a un lado, ni hacer a un lado. Por eso, nuestra humilde palabra para ellos, ellas, es todos somos niñas Palestina. Todos ellos somos niños Palestina. Muchas gracias, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la radio que tú escuchas? Radio Plaza, évidemment. Radio Plaza, extemporánea, ultrasonica, libera, radiofone utopica. Radio Plaza, in piazza, strombazza e allazza, svolazza e spiazza. E ogni volta c'è qualcuno che si incazza. Radio Plaza. Antifascista, antimilitarista, antisessista, anticapitalista, antispecista. Intermittente, imprendibile, a filo continuo. Complici di Radio Plaza, voci, musica, letture, notizie, ospiti ideali, svincolanti, proposte nonostante tutto in lotta continua. In Chiapas come a Gaza resiste Radio Plaza. Così, per ora. Adesso. Questa è Radio Plaza, intermittente ultrafonica al servizio di nessuno. E buongiorno a tutti quelli che arrivano in questo preciso momento nella piazza più grande di Marigliano. Un saluto cordiale, un saluto cognac, un saluto carota, un saluto bastone anche. Un saluto da Radio Plaza. Radio Plaza stamattina di nuovo in piazza, stamattina 9 novembre 2025, siamo a Marigliano, piazza Municipio, questo è Radio Plaza sempre dalla stessa parte, Palestina, Chiapas, resistenze parallele, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Esatto, ogni lotta aiuta un'altra lotta, quindi quante più lotte si possono iniziare meglio è, perché sempre dalla stessa parte anche Radio Plaza, e comunque... occhi aperti, c'è già chi ci specula e chi ci speculerà. Ah, ridilla più veloce. C'è già c'è chi ci specula, quindi già c'è chi ci specula e chi ci speculerà. Sembra uno scioglilingue, ma invece è proprio così. È proprio vero, sì, al di là dell'informazione generale, la guerra non è finita, E questo è il collettivo Utopia, siamo in piazza dal vivo, live a Piazza Municipio Marigliano e siamo su collettivoutopia.noblogs.org, streaming in questo momento. Questo è il collettivo Utopia e che dire più, da 20 anni ormai qua in piazza, in queste strade, in altre strade, il collettivo Utopia fa proposte ed oggi ci troviamo qui per Tatauelo, ne parleremo, e per ancora una volta Palestina. E il collettivo Utopia fa anche propaganda continuamente, no, anche saltuariamente, radicalmente il collettivo Utopia, per contattare il collettivo Utopia basterà navigare su collettivoutopia.noblogs.org, ci sono vari capitoli sul nostro blog e poi c'è, abbiamo anche l'indirizzo mail sul nostro blog, che è collettivoutopia@bruttocarattere.org. Oggi è il 9 novembre 2025 e siamo qua. È una bella giornata. Un po' confusi. È l'ora presto. Il mondo ci mette. E allora mettiamo un attimo un po' di mettiamo qualcosa ordine, in ordine. Ordine basta. Siamo su Radio Plaza, siamo stamattina a Piazza Municipio a Marigliano perché ritorna il progetto Tatauelo. In realtà oggi facciamo la distribuzione del caffè del progetto Tatauelo, progetto nato nel 2003 da diverse organizzazioni italiane dell'economia solidale italiana che sostiene le comunità indigene zapatiste del Chiapas in Messico attraverso appunto la prefinanziazione, il prefinanziamento, scusatemi mi sono distratta, il prefinanziamento del caffè, il maggior prodotto di esportazione e fonte di reddito per centinaia di famiglie di piccoli produttori. E questa commercializzazione del caffè poi resta uno dei pilastri fondamentali per la costruzione dell'autonomia zapatista, per la costruzione di strutture educative, sanitarie e lo sviluppo complessivo della comunità. Per tutti quelli che volessero approfondire l'argomento Tatauelo si può andare sui siti online. Sul sito di Tatauelo. Sì, non ci perdiamo nella Nutella. Stamattina aspettiamo chi viene a recuperare il caffè prefinanziato, sembra con due F, prefinanziato, e che è arrivato, e perché a Marigliano c'è un gran bel gruppo di acquisto ormai da anni e che fa anche bei numeri, e stamattina si recupera il caffè prefinanziato a più o meno in primavera, sì, più o meno, era primavera, sì. Era marzo, febbraio, marzo più o meno. E quindi pagando il caffè in anticipo si evita così alle cooperative ciapanese di finire nello strozzinaggio dei coyotes locali, e così possono disporre autonomamente delle loro economie necessarie alle proprie attività. E quindi però basta, vi facciamo ascoltare la voce di Dulce che era, no, non l'ascoltiamo adesso, non adesso, ma più un tardi po' più avanti ascolteremo la voce di Dulce, che è stata qui a Marigliano già tante volte. Intanto però un'altra parte del boicottaggio, un'altra parte della puntata sarà dedicata al boicottaggio, e avremo presto qui con noi anche un rappresentante del BDS, ne parleremo dopo, perché quando c'è un'alternativa il boicottaggio è necessario. Sì, in attesa che arrivi questo nostro ospite gradito, chissà che faccia Mauro del BDS di Napoli. Io l'ho vista. Ah, tu lo conosci? Ok. Va bene, allora, quindi molta musica stamattina prima delle nostre voci. Questa è la voce mia. Questa è la mia. Questa è la sua. Poi lì c'è ci sono lui, le sue mani. E ci sono anche loro e ci sono tutti gli altri. Qui nella piazza. E vabbè, comunque facciamo l'elenco di quello che volevi dire, qualche altra cosa. Dillo. Andiamo avanti con la puntata. No, non andiamo avanti. Volevo così. Prendete appunti perché abbiamo ascoltato. Vabbè, già dall'inizio, diciamo così, è già una mezz'oretta che ascoltiamo musica. Comunque la puntata inizia sempre con una presigla e questa volta era il brano Parkour di Afterlife dall'album Electro Sensitive del 2019. E poi abbiamo avuto la doppia sigla. Prima sigla, compagni militanti che sanno cantare. Il rap, chiaramente, ed erano Assalti frontali, Il muro del canto e 99 posse. Il brano era Fino all'ultimo respiro. Si è riconosciuta la voce di quello. Piovono le rime mentre piovono le bombe. Vabbè, comunque bravi. Io li seguo da un bel pezzo. Tu li hai incontrati? Da un pezzo di meno. Okay. E poi più avanti abbiamo ascoltato Corrido Zapatista dei Los Mirabiles dall'album Sin Dios ni Lei. Sin Dios ni Lei. Dios senza, è plurale. Senza dei e senza leggi. Plurale. Bravi. Invece adesso andiamo avanti e ci ascoltiamo. Abbiamo avuto ancora qualche altra cosa. No. Siamo ancora un po' distratti. Mentre recuperiamo l'attenzione, ascoltiamo le parole del subcomandante Moisés. Abbiamo ascoltato. Molto bene. È sempre la domenica mattina. Dovremmo iniziare a luna a fare la radio. E invece niente. Allora, abbiamo ascoltato le parole del subcomandante Moisés delle ZLN in solidarietà con i popoli di Palestina nel giorno di apertura del festival di condizione alcune parti del tutto, che si è svolto nel Caracol IV di Morelia ad agosto 2025. Più avanti però daremo ancora conto delle conclusioni di questo incontro. E sì, ora recuperiamo un attimo l'attenzione, mentre direi che ma io ci direi anche di no, anche di no. Distraiamoci un attimo con un delizioso brano, ed è una cover di Blackbeard dei Beatles, eseguita da Yen Lee. Vanno in queste terre proprio per tenerle vive e mantenerle sane. e li lavorano in questo metodo che si chiama agroecologia, che vuol dire meno trattamenti, sono tutti biologici, organici, che si producono loro stessi nelle loro comunità. E il progetto Tatauelo li sostiene anche in questo. Una quota del 10 centesimi di ogni pacchetto che voi comprate o prefinanziate va a alimentare questo progetto, in cui loro creano questi piccoli laboratori rudimentali dove loro si elaborano i suoi compost organici, sia di lombrico, sia di gallina, ossia di microorganismi, si chiamano efficienti e servono per concimare la terra, oppure i funghi antagonisti che servono per le parassita. È tutto naturale, non c'è niente di comperato, i ceppi se li autoriproducono e vanno avanti autonomamente. E il pacchetto del progetto, i soldi del progetto va per sostenere queste cose, ma in più le cooperative danno sostegno a tutta la comunità, non solo a quelle che coltivano caffè, serve per fare gli ospedali, l'educazione, l'acqua, perché è un altro tipo di economia, non è guadagnare, fare una cooperativa per farsi ricchi, è per fare stare meglio tutta la comunità. Radio Plaza! Radio Plaza! Radio Plaza! Sì, ci siamo tornati! E dillo pure tu! Radio Plaza! Radio Plaza! Radio Plaza! Radio Plaza! Radio Plaza! Perché se non si fosse capito, questa è Radio Plaza! Eh sì, è Radio Plaza e siamo tornati. Quella che abbiamo sentito, come dicevamo prima, è la voce di Dulce. Dulce e Walter sono appunto i rappresentanti della cooperativa Tatauelo, che sono stati qui a Marigliano già diverse volte. Sì. Quella che abbiamo sentito era la volta del 12 febbraio del 2017. Eravamo in un luogo che era prima stato abbandonato, dopo la chiusura della vecchia linea della circumvesuviana di Marigliano, e poi invece era diventata un'area ripresa a dicembre del 2013, che giorno dopo giorno diventava un luogo vivibile, aperto, pulito e bello. Era Stazione Utopia. Sì, uno spazio libero per incontri, crescita culturale, politica e socialità, un metodo adottato era quello dell'autogestione, la ricerca dell'autonomia, la partecipazione diretta e l'autofinanziamento senza nessuna delega, nonostante le campagne elettorali. Oggi è purtroppo una caserma chiusa ancora, tra l'altro, quindi non la possiamo visitare questa caserma. Io vorrei vedere come l'avevano fatta, che quadri avevano messo in questo al posto di quelli che volevi mettere tu, Fabrizio. Siamo rimasti senza parole. Senza parole, senza parole. Al posto di un centro sociale piazziamo una bella caserma, chiudiamola, non la facciamo aprire da nessuno e parcheggiate liberamente per andare a comprare la frutta da quello che la vende di fronte a prezzi stracciati, chissà perché. E intanto questa puntata di Radio Plaza va avanti. Abbiamo Basta fatto polemiche. Un attimo un revival su Stazione Utopia, che va sempre bene, fa sempre bene ricordare cos'è adesso e cos'era prima. Sì. Oggi però questa puntata di Radio Plaza, sempre dalla stessa parte, è musica, e andiamo con il prossimo brano di Patti Smith dall'album Tramping 2004, dal titolo Peaceful Kingdom. Patti Smith annuncia questa canzone con queste parole, ve le voglio leggere, cioè ve le voglio riportare. Lei dice: vorrei dedicare questa canzoncina a Rachel Corrie. Rachel Corrie era una ragazza di 23 anni di Tacoma, Olympia, Washington, che si era recata a Gaza per protestare contro la demolizione delle case dei cittadini palestinesi. È stata uccisa da un bulldozer. È stata investita da un bulldozer israeliano in un tragico incidente. Nessuno ha letto molto su di lei, non c'è stato un vero senso di indignazione. Se muore un soldato americano, il senso di indignazione, il patriottismo, il dolore che si instillano nel popolo americano sono enormi. Naturalmente la morte di chiunque per qualcuno è una cosa terribile, è una cosa triste, e noi piangiamo tutti i cittadini e i soldati che muoiono in guerra, ma non c'è stato alcun senso di indignazione pubblica per Rachel Corrie. In verità, a pochi importava che una giovane attivista di 23 anni fosse stata uccisa da un bulldozer mentre svolgeva il suo specifico dovere. quindi penseremo a lei. Questa è per Rachel. Thank you. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Papi! Sono stato buon. Quando sangue cavolo non deve discorrere, io ero pronto per fare rivoluzione. Dico che succedeva, succedeva, che muremo, muremo, io ero pronto per fare rivoluzione. Quando tu ci slotta e grassa si ma senza sangue, mi convincisse a tinte e carne me ne ha scelto Cristo. Hobby! Sono stato buono, ma mamma mi sono rotto cazzo. Ok, e rientriamo in diretta da Piazza Municipio qui a Marigliano per questa bellissima giornata. Oggi non piove, ha piovuto ieri, abbiamo avuto paura. Vabbè, anche chi ha ascoltato la voce di James Senese, questo era un doveroso omaggio al grande James che se n'è andato pochi giorni fa. E l'estratto era un amico mio dei Napoli Centrale. Ha detto cazzo comunque, ma già rotto cazzo ha detto, l'ha detto lui, perché c'è cioè, chi può e chi invece no. E invece adesso sotto la nostra voce, eccola lì, ci sono i doverosi area per Radio Plaza, sempre, ci sono sempre con noi, e Nervi Scoperti è il brano che vogliamo ascoltare un pezzettino, rialziamo un po' il volume. Alzate il volume. Abbassate il volume, abbassate. State calmi. Nervi Scoperti degli Area, andatevela a cercare e piazzatela a volume altissimo nel vostro condominio. Il modo migliore per far scoppiare i conflitti in casa. Conflitti in casa. Andiamo avanti col programma? Sì, andiamo avanti col programma. Oggi è Palestina, domani saremo noi. Palestina libera. Le comunità zapatiste sono sotto attacco da tempo, ma negli ultimi mesi le aggressioni si sono intensificate, raggiungendo anche le zone dove è più forte la presenza delle basi di appoggio delle ZLN. In un recente comunicato, la nuova struttura organizzativa delle comunità zapatiste ha denunciato come questi attacchi si inseriscano nelle più ampie dinamiche di distruzione dell'autonomia zapatista. E leggiamo quindi l'articolo di Diego Enrique Osorno, apparso su Milenio, che è un quotidiano nazionale del Messico, il 1 ottobre 2025. L'Assemblea dei collettivi dei governi autonomi zapatisti ha denunciato lo scorso 28 settembre 2025 un attacco contro la comunità di Belén, nel Caracol di Dolores Hidalgo. Case incendiate, coltivazioni distrutte e assedio armato in terre recuperate dalle ZLN nel 1994 e riconosciute ufficialmente dal 1996. Il fatto non è nuovo, è parte di una lunga guerra di logoramento contro l'autonomia zapatista. Il 18, il 20 e il 22 settembre, racconta il comunicato, 15 persone si sono stabilite sul posto. Il 20 settembre sono arrivati nuovamente 2 camion dell'esercito federale, 3 camion della polizia municipale di Ocosingo e 4 camion della procura generale dello Stato. Sono state distrutte e bruciate le case dei responsabili, basi di appoggio zapatiste, è stato rubato il mais e quelli che sono rimasti continuavano a rubare. Abbiamo provato di nuovo a parlare con loro, ma non hanno voluto sapere nulla perché il malgoverno formalmente aveva già consegnato loro la terra. Il documento zapatista si conclude in questo modo. Fratelli e sorelle del popolo messicano e del mondo, questo è il piano del neoliberismo in Messico contro di noi. Proprio come abbiamo detto nell'incontro del semillero Encuentro de Resistencias y Rebeldías, algunas partes del todo, svoltosi nel Caracol di Morelia nell'agosto del 2025. Oggi è la Palestina, domani saremo noi. La frase finale stabilisce un vincolo quindi diretto tra l'espropriazione indigena in Messico e i processi globali di occupazione e violenza che si stanno vivendo nel mondo. Gaza, Ucraina, Amazzonia sono territori nei quali la vita diventa invivibile perché il potere economico e militare decide che i loro abitanti sono di troppo. Il Chiapas non fa eccezione. Quello che incombe su Belen non è la disputa per qualche ettaro, è il futuro di un modello politico che senza partiti né bilanci governativi ha costruito cliniche, scuole e forme di giustizia comunitaria. Nella retorica della giustizia sociale e nei programmi clientelari dell'attuale governo federale hanno cambiato il fatto che le autonomie indigene vengano viste come una anomalia politica. Lo zapatista che non partecipa alle elezioni né chiede sussidi è un'evocazione scomoda del fatto che la trasformazione può nascere dal basso e non dal Palazzo Nazionale. A cosa serve un discorso progressista se i popoli originari continuano ad essere trattati come ostacoli allo sviluppo? L'attacco contro le comunità zapatiste svela il volto di un vecchio Stato autoritario riconfigurato. Ora l'espropriazione si maschera con mega progetti strategici e promesse di crescita economica. L'esercito zapatista di Liberazione Nazionale non difende solo un territorio, difende un'idea alternativa di vita. Una vita in cui la terra non si compra né si vende, in cui la democrazia non si riduce alle urne e in cui la dignità non dipende da programmi sociali. Come dicono gli zapatisti, oggi è Palestina, domani è il Chiapas e se la società messicana rimane indifferente a ciò che accade a Belen, domani potrà accadere in qualsiasi altro angolo. Ed è per questo che ogni lotta aiuta un'altra lotta. Questo è quello che propone oggi Radio Plaza. Radio Plaza stamattina a Marigliano e online su collettivoutopia.noblogs.org. Ascoltiamo adesso il prossimo brano, che è un brano di Umberto Fiori e Commissione Artistica Movimento Studentesco Milanese, dal titolo Palestina. Lo troviamo nell'EP di Canzoni del Movimento Studentesco 1973. Palestina è un brano scritto, come vi dicevo, da Umberto Fiori con un testo di carattere antisionista e filo-palestinese e la canzone è stata eseguita da gruppi della Commissione Artistica del Movimento Studentesco Milanese e questa è Radio Plaza. Radio Plaza. Buon ascolto su Radio Plaza. Radio Plaza. Plaza. Laggiù nel Medio Oriente come un bufalo ferito, in furia il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso al verde, bianco e nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Li chiamano banditi i giornali dei padroni che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani, al tiranno Giordano traditore. Quante volte ci hanno detto è finita in Palestina e ancora cantavamo la canzone. Abbiamo alzato rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatà. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Al di là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. ogni colpo sparato sul nemico sionista. In Italia colpisce chi comanda, coi popoli in rivolta si muove oggi la storia. Rivoluzione fino alla vittoria. Abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di Alfata. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Radio Plaza, Radio Plaza rientra dal vivo, dal vero, in Piazza Municipio a Marigliano, oggi 9 novembre 2025, con una nuova puntata di Radio Plaza, sempre dalla stessa parte. Palestina Chiapas, resistenze parallele, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Radio Plaza su collettivotopia.noblogs.org. Radio Plaza, questo è un blocco lungo, mettetevi comodi, dalla stessa parte, da sempre subcomandante insurgente Marcos. A Gaza c'è un esercito di professionisti che uccide una popolazione inerme. Già 16 anni fa il subcomandante Marcos raccontava quello che stava succedendo in quel momento e che sarebbe successo ancora tra Israele e Palestina, e come sappiamo niente è cambiato fino ad oggi. E leggiamo degli estratti dal comunicato di gennaio 2009 dal titolo Di semine e raccolti. Forse quello che sto per dire è irrilevante per il tema centrale di questa tavola rotonda, o forse no. Due giorni fa, proprio nel giorno in cui parlavamo di violenza, l'ineffabile Condoleezza Rice, funzionario del governo statunitense, dichiarava che quanto stava accadendo a Gaza era colpa dei palestinesi, a causa della loro natura violenta. I fiumi sotterranei che attraversano il mondo possono cambiare geografia, ma intonano lo stesso canto, e quella che sentiamo ora è una canzone di guerra e di dolore. Non lontano da qui, in un luogo chiamato Gaza, in Palestina, nel Medio Oriente, accanto a noi, un esercito pesantemente armato e addestrato, quello di Israele, continua la sua avanzata di morte e distruzione. I passi compiuti sono finora quelli di una classica guerra militare di conquista. Noi non ne sappiamo molto e a ben vedere ci sono specialisti del cosiddetto conflitto medio orientale, ma da questo angolo del mondo abbiamo qualcosa da dire. Secondo le foto delle agenzie di stampa, i punti nevralgici distrutti dall'aviazione governativa israeliana sono case, capanne ed edifici civili. Non abbiamo visto bunker, caserme o aeroporti militari o batterie di cannoni tra ciò che è stato distrutto. Quindi, scusate la nostra ignoranza, o pensiamo che gli artiglieri abbiano una pessima mira, o la verità è che non ci sono punti militari nevralgici a Gaza. Non abbiamo avuto l'onore di conoscere la Palestina dal vivo, ma se presumiamo che queste case, capanne ed edifici fossero abitati da persone, uomini, donne, bambine, anziani e non da soldati, non abbiamo nemmeno visto fortificazioni, ma solo macerie. Abbiamo assistito invece al tentativo finora inutile di oscurare i media, all'esitazione dei vari governi del mondo nel prendere una posizione rispetto all'invasione e alla figura dell'ONU da tempo inutile, capace solo di emettere tiepidi comunicati stampa. Ma aspettate, ci è venuto in mente che forse per il governo israeliano questi uomini, donne, bambini e anziani sono soldati nemici e come tali le capanne, le case, gli edifici in cui vivono sono caserme da distruggere. Quindi sicuramente il fuoco che è caduto su Gaza questa mattina presto era per proteggere da questi uomini, donne, bambini e anziani l'avanzata della fanteria dell'esercito israeliano. e la guarnigione nemica che si vuole indebolire con l'assedio di Gaza non è altro che la popolazione palestinese che vi abita. E l'offensiva cercherà di annientare quella popolazione e ogni uomo, donna, bambino o anziano che riuscirà a sfuggire nascondendosi all'assalto prevedibilmente sanguinoso sarà poi braccato in modo che la pulizia possa essere completata, in modo che il comandante militare incaricato dell'operazione possa riferire ai suoi superiori: abbiamo completato la missione. Perdonate ancora una volta la nostra ignoranza. Forse quello che stiamo dicendo è in realtà fuori tema o qualcosa del genere a seconda dei casi. È che invece di ripudiare e condannare il crimine in corso, da indigeni e guerrieri quali siamo, dovremmo discutere e prendere posizione sul fatto che si tratti di sionismo e antisemitismo o che tutto sia partito dalle bombe di Hamas. Forse il nostro pensiero è molto semplice e ci mancano le sfumature e i dettagli che sono sempre così necessari nell'analisi, ma per noi zapatisti e zapatiste, a Gaza c'è un esercito di professionisti che uccide una popolazione inerme. Chi sta in basso e a sinistra può tacere. Serve dire qualcosa. Le nostre grida fermeranno qualche bomba, le nostre parole salveranno la vita di un bambino palestinese. Noi pensiamo di sì. Forse non fermeremo una bomba o la nostra parola non diventerà uno scudo corazzato che impedirà qual proiettile calibro 5,56 mm o 9 mm. Con le lettere IMI, cioè Israeli Military Industry, incise sulla base della cartuccia. Non impediremo quindi a quella cartuccia di raggiungere il petto di una bambina o di un bambino, ma forse la nostra parola riuscirà a unirsi ad altre in Messico e nel mondo e forse diventerà prima un mormorio, poi una voce forte, poi un urlo che sentiranno fino a Gaza. Non sappiamo voi, ma noi, zapatiste e zapatisti delle ZLN, sappiamo quanto sia importante, in mezzo alla distruzione e alla morte, sentire qualche parola di incoraggiamento. Non so come spiegarlo, ma si scopre che sì, le parole da lontano forse non bastano a fermare una bomba, ma sono capaci di aprire una crepa nella stanza nera della morte, per farvi entrare un po' di luce. Altrimenti succederà quello che succederà. Il governo israeliano dichiarerà di aver inferto un duro colpo al terrorismo, nasconderà al suo popolo l'entità del massacro. I grandi produttori di armi avranno guadagnato un po' di respiro economico per affrontare la crisi e l'opinione pubblica mondiale, quell'entità malleabile e sempre uguale a se stessa, si girerà dall'altra parte. Ma non solo. Succederà anche che il popolo palestinese resisterà e sopravviverà e continuerà a lottare e continuerà a ricevere solidarietà dal basso. E forse sopravviverà anche un ragazzo o una ragazza di Gaza. Forse cresceranno e con loro il coraggio, l'indignazione, la rabbia. Forse diventeranno soldati o miliziani di uno dei gruppi che combattono in Palestina. Forse combatteranno contro Israele, forse lo faranno sparando con un fucile, forse si immoleranno con una cintura di candelotti di dinamite intorno alla vita. E allora dall'alto scriveranno della natura violenta dei palestinesi e condanneranno la violenza e il dibattito tornerà schiacciato tra sionismo e antisemitismo. E nessuno si chiederà chi ha seminato quello che stiamo raccogliendo. A nome degli uomini, donne, bambini e anziani dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. E dopo 15 anni il subcomandante insorgente Moisés del Messico nell'ottobre del 2023 in un altro comunicato diceva: coloro che all'epoca, quasi 15 anni fa, erano minorenni e sono sopravvissuti, beh, c'è chi è stato responsabile della semina di ciò che si sta raccogliendo oggi e c'è chi impunemente continua a seminare. Chi solo pochi mesi fa giustificava e difendeva l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, adducendo il diritto di difendersi da una potenziale minaccia, ora deve distreggiarsi o scommettere sulla dimenticanza per invalidare tale argomentazione di fronte a Israele e viceversa. Oggi in Palestina, in Israele e in tutto il mondo ci sono bambini e ragazzi che imparano ciò che il terrorismo insegna. che non ci sono limiti, né regole, né leggi, né vergogna, né responsabilità. Né Hamas né Netanyahu. Il popolo di Israele sopravviverà, il popolo palestinese sopravviverà. Devono solo darsi una possibilità e impegnarsi. Nel frattempo, ogni guerra continuerà a essere solo un preludio alla successiva, più feroce, più distruttiva, più disumana. Io che ho visto terra bruciare, la gente che mi entrava in casa, io che ho visto tutto, oggi sono vero. Ed ho visto nuove una campana, stare insieme a gridare per ore. Ieri ho visto il mare, oggi sono stanco. Voglio di più di quello che vedi, voglio di più di questi anni amari. Sai che non striscerò per farmi valere, vivrò così cercando un senso anche per te. Prestare le mani solo in cambio di un po' di rumore, mentre a sud il caldo t'ammazza e voglia di cambiare, cambiare. Ed ho visto morire bambini nati sotto un accento sbagliato. Ieri mi sono incazzato e oggi sono vero. Voglio di più di quello che vedi, voglio di più di questi anni amari. Sai che sfilerò per farmi valere, sarò così sempre pronto a dire no, no. Ma voglio di più. Giù la testa, coglione. Rientra Radio Plaza su questo sottofondo, ogni tanto ci piace ricordarli, no? Questo poi su quelli là che piacciono a me, quindi Malecon Social Club, il sottofondo è di Suavito dal titolo Tutti gli esseri senzienti sono moralmente uguali. che è il titolo del brano del nuovo blocco di Radio Plaza. Distrattamente Radio Plaza, questo era il titolo del nuovo blocco che introduciamo con il brano di Pino Daniele. L'abbiamo appena ascoltato, era, lo dobbiamo dire cos'era? Sì. Lo diciamo? Sì. Era Voglio di più di Pino Daniele dall'album Nero a metà del 1980. E 80. Questa che radio è? Radio Plaza. Sì, questa è Radio Plaza. Nero a metà, 45 anni di Nero a metà. Voglio di più. Quindi un saluto a James, un saluto a Pinuccio e un saluto anche ai Malecon Social Club che stiamo ascoltando adesso. Fuori tempo, andiamo avanti. Grazie a Parolari su invictapalestina.org. Traduce un articolo del 3 luglio 2021 di Andrés Kogan Valderrama dal titolo Tutti gli esseri senzienti sono moralmente uguali. Andrés Kogan Valderrama, sociologo dell'Università Centrale del Cile e membro del Global Good Living Movement, propone le esperienze di lotta zapatista e curda come alternative necessarie alle forme statali contemporanee, una proposta rivoluzionaria in Chiapas come in Siria, che potrebbe rappresentare un'alternativa anche per il popolo palestinese e per tutti i popoli oppressi nel mondo. Vediamo. Consapevole che i casi zapatista e curdo siano solo esempi e non ricette politiche, l'autore ci dice che potrebbero cominciare a essere riferimenti trasformativi per quei milioni di esseri umani condannati a vivere delle briciole da stati e autorità a cui poco interessa del benessere delle comunità e dei territori. Intanto alternative sostenibili estranee allo Stato moderno si intrecciano e resistono già da tempo in tutto il mondo, ma sono ancora tenute invisibili dalle grandi corporazioni dei media, sia privati che statali. I casi di lotta degli ultimi decenni del movimento zapatista e del movimento curdo sono un chiaro esempio di come sia possibile costruire forme di organizzazione orizzontale, non statale, dove le opinioni ecologiste, anarchiche, indigene, femministe e anticoloniali convergono dalle stesse basi, e vediamole nel dettaglio. Diventa quindi molto rivoluzionario quanto promosso attraverso i caracoles, i juntas de buen gobierno del movimento zapatista, dove con il principio del comandare obbedendo, una mezza dozzina di comuni sono governati a rotazione e in cui coloro che governano sono obbligati a rendere conto sempre del loro operato e possono essere revocati in qualsiasi momento, essendo in pratica servi e non governanti del popolo. Lo stesso per quanto riguarda il confederalismo democratico del movimento curdo, che come la forma organizzativa zapatista promuove un municipalismo libertario al di fuori del tradizionale sistema statocentrico, in cui diversi consigli femminili e giovanili in autogestione realizzano un'economia comunitaria basata sul mancato accumulo e non sulla sovrapproduzione. Da sottolineare l'importanza della rotazione dei portavoce, della partecipazione attiva delle donne e il fatto che la salute, l'istruzione, la giustizia e l'alimentazione non siano solo delegati ai rappresentanti, ma siano gestiti sempre dai territori e direttamente attraverso la comunità. Rende tali realtà qualcosa di completamente diverso da come gli stati nazionali moderni hanno costruito e distribuito il potere politico, siano essi europei, latinoamericani, arabi di sinistra o di destra. Di fronte a questo, entrambe le esperienze, ricordiamo quelle zapatista e quella dei curdi, possono diventare un orizzonte sostenibile per molti popoli oppressi e resistenti nel mondo, come ad esempio i palestinesi. E come ad esempio gli italiani, certi italiani direi, quindi un'utopia per l'Italia sicuramente, ma questa è la proposta. Questa è la proposta di oggi, l'ennesima proposta di Radio Plaza, ma Radio Plaza è musica, Radio Plaza è oggi dal vivo in Piazza Municipio a Marigliano e Radio Plaza è online su collettivoutopia.noblogs.org. Adesso andiamo con il prossimo brano, un brano di St. Thomas. Il brano è di saxophone, mi sono un attimo non fa niente, no, sentiamolo direttamente e poi ne parliamo dopo, magari o domani ci sono chiediamo al sindaco di indire un'assemblea pubblica per parlare di questo brano. Sì, direi dai, di sì, facciamolo, sì, magari, magari fossero questi problemi. Il brano è di Sonny Rollins, che è un sassofonista tenore jazz americano, uno dei più importanti e più influenti della musica jazz di tutti i tempi. Il brano è St. Thomas, dall'album Saxophone Colossus. Questa è Radio Plaza, ma è davvero? Radio Plaza! Radio Plaza! Palestine will be free. Notiziario. Il 10 ottobre 2025 su Altra Economia è uscito un articolo di Andrea Siccardo sul massiccio incremento delle esportazioni militari degli Stati Uniti a Israele in seguito all'operazione militare a Gaza. Il titolo è Altro che Nobel, i dati mostrano che di fatto sono stati gli Stati Uniti a bombardare Gaza. Questo, dicevo, è il titolo dell'articolo, il cui contenuto si basa su dati raccolti dal Dipartimento del Commercio americano. E sono questi: nei primi 7 mesi del 2025, quindi parliamo di gennaio-luglio 2025, il prodotto più esportato dagli Stati Uniti a Tel Aviv per valore è risultato essere bombe e granate, superando diamanti e aerei. E questa è solo una frazione dei 21,6 miliardi di dollari di aiuti militari statunitensi previsti per il governo Netanyahu tra l'ottobre 2023 e il settembre 2025. Nell'articolo Giorgio Beretta, da notare il cognome, analista dell'Osservatorio Permanente sulle armi, leggere. Radio Plaza. Giorgio Beretta sostiene che gli Stati Uniti, in quanto principale fornitore di armamenti, sia con Biden che con Trump, sono stati di fatto responsabili del bombardamento di Gaza. Beretta ritiene che il costante supporto armato che gli americani hanno garantito a Israele possa costituire una grave violazione del diritto internazionale e sottolinea che fornire armi a uno Stato i cui leader Netanyahu e Gallant hanno ricevuto mandati di arresto dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra dalla fine del 2024 può portare a conseguenze per complicità. Conclude affermando che l'ex presidente Biden e il nuovo presidente Trump dovrebbe essere perseguiti per crimini di guerra insieme a Netanyahu. E intanto in Chiapas, perché oggi è la giornata, stiamo facendo questo parallelo di storie, no? Tra Chiapas, ricordiamo a quelli che si sono distratti 10 minuti fa mentre mangiavano un gelato al caffè. In Chiapas arrivano i veterani delle forze di difesa israeliane dell'IDF, quindi attraverso le attività dell'organizzazione israeliana Heroes for Life, mentre in ebraico questa organizzazione è chiamata Guerrieri, e non Heroes, Guerrieri senza confini. La domanda è: ma che ci fanno dei soldati israeliani nelle scuole del Chiapas? È la domanda. È la domanda, sì. E chi risponde? E qualcuno ha anche una risposta. È il titolo di un articolo comparso su Nodo Solidale il 13 luglio 2025 e poi ripreso su Info Out. Lo leggiamo? Noi ve lo riportiamo, sì, perché nel reportage, insomma, si parla dell'associazione Heroes for Life, fondata nel 2013 da tre ex soldati israeliani, con l'obiettivo dichiarato di fornire aiuto umanitario e soprattutto di migliorare l'immagine globale di Israele e del suo esercito. L'associazione ha il sostegno finanziario e logistico del governo israeliano e di imprese private. I fondatori e molti volontari sono ex soldati di unità speciali responsabili di sequestri e di omicidi in Cisgiordania. E attenzione, le missioni sono intitolate a soldati morti in operazione, in varie operazioni, come Margine Protettivo del 2014 o l'attuale Spade di Ferro. Ad esempio, la missione in Chiapas si chiama Yotam Ben Best, nome di un comandante dell'unità fantasma caduto il 7 ottobre 2023. E i volontari che operano in scuole vulnerabili indossano camicie con la bandiera israeliana e portano il nome di soldati caduti in combattimento a Gaza. La presenza di queste persone nelle scuole elementari del Chiapas, come a San Cristobal de las Casas, è stata intercettata e denunciata dal Comité Action Palestina Chiapas e dal sindacato degli insegnanti, che la considerano un'operazione di propaganda sionista e di infiltrazione, con interrogativi sulle reali intenzioni e sulla complicità del governo messicano. Sempre sullo stesso numero di Altre Economia, segnaliamo un altro articolo di Anna Maria Selini dal titolo Il piano di Trump, più che la strada giusta per la pace, è il modo giusto per continuare la guerra, in cui lo storico israeliano Ilan Pappé, noto per essere stato tra i primi a usare il termine pulizia etnica per la Palestina, presenta nel suo ultimo libro La fine di Israele, il collasso del sionismo e la pace possibile in Palestina. E quindi presenta in questo libro la sua previsione sulla dissoluzione dell'attuale Stato di Israele e sulla creazione di un unico Stato democratico e plurale. Pappé è convinto che l'attuale regime di Israele, descritto come teocratico, razzista e dell'apartheid, sia destinato a crollare. Indica diversi processi in atto che, anche se lenti, stanno accelerando. Tra questi la mancanza di coesione sociale, con la frattura tra ebrei religiosi e laici in Israele, e il crescente isolamento di Israele nella società civile globale, la dissociazione di molti ebrei dalla causa sionista, una crisi economica imminente e un esercito esausto. Pappé quindi immagina uno Stato unico, democratico, dal fiume al mare, in cui ebrei e palestinesi vivano insieme con gli stessi diritti, indipendentemente da religione o nazionalità, che ciò consenta poi il ritorno dei rifugiati e l'instaurazione di una vita normale per i palestinesi dopo 120 anni. Pappé vede un futuro in cui i palestinesi, in particolare le nuove generazioni, sono impegnati nella ricostruzione di un movimento di liberazione e ritiene che la riconciliazione non sia possibile ora, poiché Israele si trova nella fase più crudele. Sottolinea come la maggioranza degli israeliani non abbia idea di ciò che stia accadendo a Gaza, poiché i media collaborano con il governo, non mostrano immagini della distruzione e liquidano le accuse di genocidio come antisemite. Esprime sorpresa per l'indifferenza dell'Europa nei confronti di Gaza, notando la disparità di trattamento rispetto ad altri conflitti, vedi l'Ucraina, attribuendola in parte alla bizzarra relazione storica e al senso di colpa europeo. Suggerisce che il ruolo della comunità internazionale non sia quello di mediare, ma di proteggere i palestinesi, poiché sono loro a rischiare l'eliminazione. Definisce il piano di pace di Trump non come la strada per la pace, ma come il modo giusto per continuare la guerra. Conclude invitando giornalisti e pubblico a usare il linguaggio appropriato, definendo Israele uno stato di apartheid per smascherare più facilmente la propaganda e le fake news. Va bene? Tutto chiaro? Musica, vai! mas eu não caio, a armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio, a armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio, a armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminada, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio, guerreio. Buona musica su Radio Plaza stamattina in Piazza Municipio e online streaming su collettivotopia.noblogs.org. Buona musica dalla voce di Giusciara Smarshall e Chico De Nucci dall'album Pade 2008 dal titolo São Jorge. E siamo in piazza qui a Marigliano oggi perché con il collettivo Utopia si sta distribuendo il caffè Tatauelo prefinanziato in primavera, così abbiamo la possibilità di invitare qualcun altro, diciamo tra 3-4 mesi, a tenersi informato sulle attività del collettivo Utopia. Basta collegarsi a online e digitare collettivoutopia.noblogs.org, si apre il sito, ci sono tutta una serie di richiami, altrimenti no, se non ci vai non lo sai. E quindi oppure collettivo Utopia @bruttocarattere.org è l'indirizzo. È proprio così, l'indirizzo è proprio @bruttocarattere.org. Collettivo Utopia @bruttocarattere.org, si può scrivere a questo indirizzo per esprimere la propria vicinanza e solidarietà nei confronti degli zapatisti, ma soprattutto dei, diciamo, degli estremisti marigianesi. C'è il sindaco in piazza? Ci sono degli estremisti a Marigliano. Wow. E qui, quindi questo è per ricordare che stamattina siamo in piazza a Marigliano per questo ponte tra resistenze parallele, tra la Palestina e il Chiapas. E per ricordare che non basta non voler essere complici, perché ogni gesto quotidiano, una lattina bevuta, un click su un carrello online, è tutto già iscritto in un sistema che produce e riproduce oppressione. Sì, per il movimento, diciamo così, a sostegno, in solidarietà con il popolo palestinese, bombardato e ammazzato dallo Stato di Israele, appunto, esiste una forma di partecipazione, di attivazione, che è il boicottaggio. Ed è il boicottaggio che non è solo un atto politico, ma se c'è un'alternativa, e c'è l'alternativa, e allora il boicottaggio è necessario. Quindi ancora prima di comprare questo o quello c'è una parola cruciale, che è decidere. E stavolta non ne parliamo noi, ma abbiamo chiamato a parlare, e siamo contentissimi di avere in radio con noi Mauro del BDS. Ci racconterà lui cos'è Mauro BDS Napoli, e però anche Mauro Radiolina Napoli, però vabbè, questa è un'altra storia. Proviamo a sentire la voce di Mauro. Sì, buonasera, buongiorno. Buonasera, buongiorno. Innanzitutto grazie a Radio Plaza, è forte la mia emozione perché, come ricordavano, abbiamo da tanti anni un'esperienza radiofonica napoletana. Oggi siamo qui a ringraziare innanzitutto per l'ospitalità Radio Plaza e salutare tutti i nostri radioascoltatori in diretta per parlare del BDS. Diciamo innanzitutto che cos'è il BDS. Il BDS è un movimento che invita al boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, e si impegna a porre fine al sostegno internazionale all'oppressione dei palestinesi da parte di Israele, con un appello ai cittadini, alle realtà associative, alle chiese, agli ospedali e ai medici di base e ai farmacisti. Boicottare si può. Uno dei principali obiettivi della campagna internazionale di BDS e quindi che abbiamo trasportato qui a Napoli e nella provincia è il boicottaggio alla casa farmaceutica Teva. È l'argomento, il primo argomento del quale iniziamo a parlare. Che cos'è Teva? Teva è una casa farmaceutica israeliana che ha delle fortissime implicazioni con il governo israeliano, e quindi invitare al boicottaggio di Teva significa anche contrastare le politiche genocidiarie di occupazione di Israele. Come si pratica il boicottaggio? Questa qui è un'azione dal basso che invita i singoli cittadini ad azioni anche piccole, ma che hanno sicuramente un loro impatto se praticate in maniera diffusa. Devo ringraziare Alex Zanotelli che per primo da anni ha iniziato ad invitarci a questo tipo di azione pacifista e non violenta per contrastare le politiche genocidiarie di Israele. E dunque, boicottare Teva cosa significa? Teva produce innanzitutto due tipi di farmaci, farmaci generici e farmaci invece specialistici. I farmaci specialistici sono anche farmaci antitumorali per i quali non si prevede il boicottaggio. Il boicottaggio invita a scegliere sui farmaci equivalenti. Il farmaco equivalente per legge in Italia deve avere lo stesso costo, quindi scegliere un farmaco piuttosto che un altro non mette le mani nella tasca dell'utente, di chi compra il prodotto, e ha una ricaduta importante. È un'azione alla quale ci stiamo dedicando da qualche mese ormai a Napoli e che cerchiamo, siamo sicuri di riuscire ad espandere nella provincia e poi a livello regionale. Quando qualcuno però ci dice no, ma non possiamo non acquistare Teva, in realtà possiamo dirgli invece... Possiamo non acquistare Teva, dobbiamo non acquistare Teva, è un piccolissimo gesto al quale non possiamo sottrarci, perché come dicevamo prima il farmaco equivalente ha tante altre alternative, il farmaco equivalente ha lo stesso costo e soprattutto i medici di base, ai quali va anche il nostro invito, hanno l'obbligo di prescrivere il principio attivo ma non la marca del farmaco. Quindi se qualche birbante medico di base vi indica direttamente la marca, siate solleciti a ricordargli che esistono altre marche di farmaci equivalenti che possono essere acquistate allo stesso prezzo. Ricordiamo a tutte e tutte che questa è la voce di Mauro del BDS di Napoli. BDS che vuol dire boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. È importante perché il Mauro fa tutto da solo. Che grande, bello, però, grande, bellissimo. Lo invitiamo più spesso alla però radio. Bellissimo. Vai, anzi, grande Mauro, grazie. Contento. Vai. Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. Chi fa il boicottaggio? Il cittadino, noi tutti possiamo con il nostro piccolo gesto fare il boicottaggio nei confronti di Teva. il disinvestimento. Chi fa il disinvestimento? Le grosse holding, i grossi capitali finanziari, le banche che provano invece a investire, che invitiamo a disinvestire nei confronti dei fondi di Israele. E invece le sanzioni sono quelle che noi chiediamo ai nostri governi nazionali e sovranazionali, affinché la campagna abbia delle ricadute concrete nei confronti di Israele. Come dicevamo prima, Teva è uno dei principali obiettivi, perché ci sono tantissimi marchi che noi invitiamo a boicottare, ma è anche importante concentrarsi su alcuni marchi per fare in modo che la ricaduta poi possa essere concreta e tangibile. A Napoli abbiamo avuto grandissima adesione, anche inaspettata, per esempio da parte di alcune farmacie che si sono autonomamente proposte per essere uno strumento anche di informazione con i cittadini, e anche grazie ad Alex, che ricordavo prima, Alex Zanotelli, padre comboniano che vive oramai da 20 anni nella sanità. Ieri abbiamo avuto un incontro importantissimo, anche insperato. Con Alex abbiamo incontrato il cardinale Mimmo Battaglia, che ci ha dato udienza e ci ha offerto grandissima disponibilità per portare la campagna di boicottaggio nelle parrocchie. E quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, avremo il suo appoggio, l'appoggio del cardinale, affinché questo piccolo gesto possa essere spiegato nelle chiese anche ai a chi c'è. E questo è un colpo grosso, direi. Importantissimo. Bene, intanto, come dicevamo, questa è la voce di Mauro del BDS di Napoli. Magari dopo ci racconterai come contattarvi, come entrare, cosa si può fare proprio anche direttamente, rispetto magari anche ad entrare a far parte del gruppo, eccetera. Intanto però direi di facciamo una pausa. Sì, ci ascoltiamo un brano. Anche perché poi dopo entriamo un po' nel dettaglio, no, del boicottaggio, Mauro. Va bene, Radio Plaza. È un brano nuovissimo, direi, Carmine. Wow, nuovissimo. E che lo dica a fare? Anzi, però ultra, non è nuovo, uscirà. Ancora non è uscito. Uscirà. È un brano. Noi abbiamo proprio due biglietti, lo mi diciamo, vabbò. Ma che come va? Siamo pronti? Siamo prontissimi per ascoltare il nuovo album di chi? Il sindaco se n'è andato. Lo dico io allora. No, lo dico io. Allora, il brano è di un gruppo che ha sede qui nella nostra cittadina ridente, e sono i Baristi Muti. Hanno pubblicato un album qualche giorno fa proprio a breve, brevissimo, no? Vicino. Tra l'altro sono aperte le la vendita dei biglietti, sì, della presentazione dell'album. Della presentazione dell'album, comunque sì, informatevi. L'album si chiama A Room Full of Doors. E invece il titolo si chiama come volete voi, allora, ma titolo, a noi piace. Il titolo, i Baristi Muti, diciamo, sono un po' così. Allora, il titolo è S8C1NDY. Che volendo, diciamo, sotto si potrebbe leggere con sotto Cindy. Radio Plaza in piazza adesso. We'll be right back. da domnul spune la vași de mă fuma. Radio Plaza, bentornati, siamo di nuovo in diretta e ci siamo... E doveva succedere anche questo su Radio Plaza. Ma ne succederanno ancora di altre, anche peggio, perché più apri porte e più vedi finestre, chiaramente, e quindi hai voglia a ridere. Allora, ripetiamo, il brano che abbiamo ascoltato, bellissimo, finisce in modo poco radiofonico, ma molto radiofonico per chi crede in una certa radiofonée come noi. Si è capito, no? Si è capito. Più o meno. Si è capito, si è capito. Gente che legge qua, qua è gente che legge. Leggeri, gente leggere. Basta così, basta così, basta. No, perché un po' di silenzio farebbe bene, capito? Perché diciamo pulisce. Facciamo che organizziamo una puntata di Radio Plaza silenziosa, ma non è questa. Tutti sottofondi. In questo momento stiamo ascoltando sempre Yen Lee, quella di Blackbird all'inizio, sempre lei. Non voglio dire nient'altro, quindi. Perché non lo sai dire. Ma anche piacevole. Quindi... vabbè, dillo tu allora. Wave Antonio Carlos Jobim. Cioè, voglio dire, siamo proprio nel Pantheon del Bossa Nova Guitar Solo. Bossa Nova Guitar Solo è il titolo? No. Carmine. No, Carmine. È così, inventiamoci. Non inventiamoci niente. Non ci siamo inventati niente fino ad ora. Siamo nel blocco dedicato al boicottaggio. Sì, il blocco di questa puntata dedicata al parallelismo fra la lotta chiapaneca in Messico, in Chiapas, zapatista, e la resistenza palestinese. Perché ogni lotta aiuta un'altra lotta. Sì, a Gaza, in Cisgiordania. E quindi come strumento nelle nostre mani quotidiano stiamo proponendo ancora una volta qui a Radio Plaza lo strumento del boicottaggio. Il boicottaggio come una forma di non collaborazione mirata a isolare socialmente, danneggiare economicamente o sottrarre consenso politico a persone, aziende o istituzioni percepite come responsabili di comportamenti illegittimi. Ho appena letto la definizione della parola boicottaggio. Boicottaggio, quindi, uno strumento di lotta non violenta alla portata di tutti, che può essere usato dal consumatore per orientare il mercato verso maggiore equità e sostenibilità e per contrastare violazioni dei diritti umani. È quello che ci propone ancora, che è qui Mauro del BDS di Napoli, ancora al tavolo con noi, che ci sta raccontando un po' le azioni possibili e quello che sta succedendo. Il boicottaggio è uno strumento del singolo consumatore, però è anche uno strumento che può essere agito attraverso una pressione verso le istituzioni. E quindi parliamo un po' del disinvestimento, no? Perché poi apparentemente purtroppo a volte succede che le istituzioni a chiacchiere, come si dice a Napoli, fanno la parte di quelli là sensibili, ma poi nei fatti i risultati non si vedono. Il nostro sindaco, il sindaco della città di Napoli, ma che è anche il sindaco della città metropolitana, quindi è anche un po' il vostro sindaco, ma è anche un po' un vostro vicino perché è abitante di Nola. Facciamo il nome. Gaetano Manfredi. Manfredi. Il Consiglio Comunale di Napoli agli inizi di luglio a maggioranza assoluta, mi sembra addirittura solo con un astenuto, vota una risoluzione importante che impegna l'intero Consiglio Comunale attraverso il sindaco a attuare tutti gli strumenti in loro potere per contrastare il regime genocidiario di Israele. Bellissimo, applausi, grande consenso da parte dell'opinione pubblica mainstream, ma poi cosa è successo? Una settimana dopo il sindaco intervistato dice sì, vabbè, abbiamo votato questa cosa, però non so proprio cosa possa fare un comune per contrastare Israele, e ci ha lasciato davvero perplessi, perché noi abbiamo un lunghissimo elenco di cose che vorremmo ricordare che può fare un singolo comune. E ricordiamolo anche al nostro comune, allora, al nostro comune, perché poi dopo questa cosa di luglio a Napoli abbiamo vissuto momenti imbarazzanti. Olmert è stato invitato a partecipare a un convegno che siamo riusciti a ridurre in un luogo recondito e nascosto, piuttosto che all'interno del bosco di Capodimonte, dove volevano venire a parlare di democrazia e di pace. E poi c'è stata la vicenda di Teva che ricordavamo prima, attraverso la quale, alla quale è stata concesso all'interno della mostra d'oltremare durante il Pharma Expo uno stand noi avevamo chiesto al sindaco di scongiurare questo episodio di visibilità. In realtà invece Teva ha messo lo stand all'interno della mostra d'oltremare e una manifestazione pacifica, non violenta, di dissenso fuori la mostra d'oltremare è stata repressa addirittura con un arresto di 3 persone che hanno passato in carcere 3 notti per delle menzogne che poi sono state smentite. Addirittura sui giornali è uscito che gli avessimo tirato in testa una transenna alle guardie. Ma cosa può fare il sindaco di Napoli e tutti i sindaci delle nostre città per contrastare Israele? Innanzitutto evitare di dare occupazione solo pubblico ai McDonald's. Sappiamo che trash food, che è schifezza da mangiare, ma sappiamo anche che McDonald's sostiene il regime genocidiario. Sappiamo anche che ci sono tantissimi distributori di prodotti a marchio Coca-Cola nelle nostre sedi istituzionali. A Napoli 150 dipendenti hanno chiesto al Comune di Napoli di ritirare i prodotti a marchio Coca-Cola, anche lì grande clamore mediatico mainstream, tanti assessori che hanno apparentemente abbracciato la causa, ma sono passati 2 mesi e i prodotti a marchio Coca-Cola continuano a rimanere lì. Ma non finisce qui. Microsoft, con un appalto plurimilionario, detiene tutta l'infrastruttura di posta elettronica e di data service del Comune di Napoli e purtroppo sappiamo bene che anche Microsoft è coinvolta con Israele, alla quale addirittura fornisce servizi di intelligence. Per ultimo parliamo invece di MSC Crociere, perché noi tutti, anche io sbagliando, ho detto MSC Crociere, ma MSC non è solo crociere. Cosa fa MSC oltre alle crociere delle quali tanti cittadini beneficiano? MSC trasporta merci in giro nel mondo, soprattutto materiale bellico per Israele, e MSC purtroppo è lo sponsor del calcio Napoli. A noi tutti piace il Napoli, ma siamo un po' diciamo in imbarazzo nel vedere che MSC Crociere e la Coca-Cola sono i main sponsor del Napoli. E poi il cerchio si chiude, perché abbiamo scoperto l'altro ieri che MSC diventa anche main sponsor della Coppa America, che si terrà a partire dal 2026 a Napoli e che definitivamente seppellisce tutti i desideri di 20 anni, 30 anni, 40 anni di riportare a Bagnoli la balneabilità e il mare. Balneolum, il luogo dei bagni di storia, di millenaria storia, diventerà Panfilium, il luogo dei panfili, perché purtroppo anche grazie a MSC Crociera tanti panfili saranno ormeggiati lì provvisoriamente, ma sappiamo bene quanto è il provvisorio nelle istituzionale, nostre istituzionale. Il provvisorio istituzionale. E vabbè, e quindi niente, quindi diciamo, di fronte alle cose che ci dice Mauro, io riprenderei quella virgola che abbiamo ascoltato prima e mi direi: "Rada mano sparella, facita ma fuma". Io invece tanto. Volevo, vabbè, Mauro, noi ti invitiamo grande volentieri, Anna. Anche se sempre peggio, no? Le notizie sono sempre. Però facciamo così, se chi c'è qui in questo momento volesse sapere come contattare il BDS, dove trovare il BDS e come partecipare alle attività del BDS. Diciamo che innanzitutto a Napoli il gruppo Napoli BDS non ha ancora una pagina social e quindi l'unica possibilità per contattarci è scrivere per adesso a bdsnapoli@ik.me, che è una nostra casella di posta elettronica, come abbiamo fatto noi, e rispondono, e noi garantiamo, infatti, che rispondono. E invece c'è un sito BDS internazionale e nazionale dal quale si possono trarre una serie di contatti e di informazioni, e ci sono una serie di appuntamenti che in chiusura di questo spazio, che speriamo di replicare presto, volevo lasciare a tutti voi. Innanzitutto a metà novembre il BDS nazionale si riunisce a Roma in 1 o 2 giorni per pianificare i futuri interventi BDS. Il nucleo internazionale invece si rivedrà ad Atene poco prima di Natale. Ma ci sono appuntamenti importanti anche ai quali è forse utile, dei quali è forse utile ricordare. Avete parlato qualche settimana fa del film No Other Land, che magicamente sì. aveva vinto quell'Oscar, varie volte boicottato da Rai 3, sembra sì. che stavolta ci siamo. Il 15 novembre alle ore 21:25 avremo tutti quanti la possibilità di guardare questo documentario importante su Rai 3, che ci farà capire davvero cosa significa l'occupazione in Cisgiordania e quanta cattiveria e quanta disumanità ci sia nella mente di chi va a tombare pozzi dalla quale, dai quali vengono, viene prelevata l'acqua per irrigare i campi, quanta cattiveria c'è da parte di chi sradica alberi che sono fonte di sostentamento da parte delle popolazioni, quanta cattiveria c'è da parte di chi va a ammazzare capre e animali degli ovili dei palestinesi nei territori occupati. Abbiamo parlato prima di Coca-Cola, una cosa cattiva che voglio ricordare, la Coca-Cola, che i prodotti a marchio Coca-Cola non sono solo la Coca-Cola, c'è anche la Fanta, ma la Coca-Cola addirittura produce un vino prelibato che viene, ohimè, coltivato in un territorio occupato della Cisgiordania. Quindi è anche questo la Coca-Cola, e anche queste, sono anche queste le ragioni per le quali vi invitiamo a boicottare i marchi. E togliere la terra a chi la coltiva è genocidio. Terribile, terribile. Proprio grazie così. Davvero per questa fantastica opportunità che ci avete dato. Speriamo di continuare a parlare di boicottaggio su Radio Plaza, qui a Marigliano, ma anche a Napoli, magari in una prossima occasione in piazza, perché la radio Mietra Via è sempre una cosa fantastica alla quale non mancherà mai il nostro entusiasmo. Grazie, grazie Mauro, davvero. Grazie mille, noi ci saremo. Vogliamo ci fare saremo, un applauso Mauro, a Mauro, grazie. La piazza apprezza. La piazza apprezza Lazze Svolazza, grazie, sulla, grazie, grazie sulle voci, sulle frequentazioni. Torneremo sulle frequenze di Radio Plaza a parlare di boicottaggio, a parlare di Palestina e a parlare di tutte le battaglie che ci stanno a cuore. Grazie ancora. Mauro è un autonomo, bellissimo. A Radio Plaza è il posto giusto per Mauro. E potrebbe essere anche, diciamo, per chi si interessa di scuola, no? Uno studente perfetto, si fa la domanda e dà anche la risposta giusta, tra l'altro. E quindi molto bene, molto bene. Siamo contenti e quindi in questa contentezza ci andiamo ad ascoltare Bjork dall'album Fossora del 2022, un brano che dura 4 minuti e 45, Fungal City. Buon ascolto, questa è Radio Plaza. Fungal City, Subterranean, Curve the forest floor. We walk on this sunken mystery, trunks bursting through the moss from Plaza in piazza stamattina, 9 novembre 2025, piazza Municipio Amarigliano, Radio Plaza, nuova puntata dal titolo Sempre dalla stessa parte, Palestina Chiapas, resistenze ed esistenze parallele, ogni lotta aiuta un'altra lotta, e come ogni anno Tatauelo lancia una campagna di prefinanziamento che consente alla realtà che vogliono sostenere il progetto di acquistare in anticipo una quota di caffè, dando così ai produttori le risorse finanziarie necessarie alla raccolta e alla lavorazione del caffè, e poi anche, che serve poi per far fronte alle spese di sussistenza quotidiana. E noi oggi, Collettivo Utopia, siamo qui a Marigliano a consegnare il caffè a chi l'aveva prefinanziato a febbraio 2025, proprio qui da Marigliano e dintorni, con il gruppo di acquisto solidale, e ringraziamo tutte le persone che hanno acquistato e che hanno oggi recuperato il caffè, quelle che lo recupereranno e l'hanno già recuperato. Il progetto Tatauelo, nato nel 2003, sostiene le autonomie zapatiste in Chiapas. Il caffè è il maggior prodotto di esportazione e forme di reddito per centinaia di piccole famiglie di produttori. La commercializzazione inoltre è uno dei pilastri fondamentali sul quale si regge la costruzione dell'autonomia zapatista. Infatti è anche grazie al lavoro delle cooperative indigene e alla vendita dei prodotti nei circuiti del mercato solidale che i governi autonomi del Chiapas sostengono le strutture educative e sanitarie e lo sviluppo complessivo delle loro comunità. Oggi consegniamo e a febbraio prefinanziamo. Vi aspettiamo. Eh sì, vi aspettiamo, vi faremo sapere quando comincerà il prossimo prefinanziamento per il prossimo caffè. Intanto però Radio Plaza per la Palestina, Radio Plaza per il Chiapas, Radio Plaza con la musica dei Black Uhuru dall'album Sin Semilla del 1980. Ascoltiamo appunto il brano Sin Semilla. Oh, Radio Plaza. Complimenti per la trasgressione. E adesso il comunicato diffuso a inizio agosto 2024 dalle montagne del sud-est del Messico nella traduzione in italiano pubblicata su Enlace Zapatista, supponiamo senza ammetterlo. Supponiamo senza ammetterlo che possiate immaginare quanto segue. Siete nati in un villaggio autoctono. In una comunità avete imparato la vostra lingua, la vostra cultura, il vostro stile di vita. Tutto questo vi rende diversi. Per l'antropologia tradizionale, la vostra lingua è un dialetto e il vostro popolo è un'etnia. Siete ciò che i progressisti chiamano un indio. Non importa il colore della vostra pelle, perché non appena inizierete a dire qualcosa, noterete il gesto di disprezzo nel vostro interlocutore non indigeno. Vedrete anche quella persona allungare istintivamente la mano in tasca per darvi una moneta. Questa persona penserà che siete inferiori, ignoranti, sporchi, poveri, superstiziosi, manipolabili e stupidi. Ma è comunque così che siete nati. Qualunque cosa facciate, nulla cambierà questo atteggiamento. Così come si è culturalmente indigeni, si è anche culturalmente razzisti, anche se si tratta di un razzismo cool. Ora supponiamo, senza ammetterlo, che il vostro popolo originario, la vostra lingua, la vostra cultura, il vostro stile di vita, sia quello dei Chol, un popolo con radici Maya che vive negli stati messicani sudorientali di Chiapas, Tabasco e Mampeche. Supponiamo, senza ammetterlo, che come tutti i popoli originari avete subito disprezzo, razzismo, ingiustizia, percosse, inganno e derisione, oltre, naturalmente, a sparizioni forzate, imprigionamenti, stupri e omicidi, solo perché siete quello che siete, un indigeno Chol. Supponiamo, senza ammetterlo, che sappiate che parte dei popoli originari del Chiapas, tra cui i Chol, fanno parte di un'organizzazione chiamata EZLN, conosciuta anche come gli Zapatisti del Chiapas, o neozapatisti, o trasgressori della legge, o quello che va di moda, che hanno preso le armi il 1 gennaio 1994, in quello che hanno definito l'inizio della guerra contro l'oblio, ponendo così fine al progetto di Carlos Salinas de Gortari, di un potere che va da oltre il sessennio. Prima era il sogno erotico del salinismo, ora lo è del morenismo. Supponiamo, senza ammetterlo, che non siate un antropologo o uno storico ufficiale, cioè che sappiate che, per secoli, i popoli nativi sono stati trattati dalla modernità, durante i governi e fasi diverse ma simili, con un misto di disgusto e pietà. E che sappiate che questi nativi esistono, vivono e lottano al di là dei libri, dei musei, delle mete turistiche, dell'artigianato e dei discorsi dei governi. Supponiamo, senza ammetterlo, che sappiate che questi popoli zapatisti sono in ribellione e resistenza perché hanno intrapreso il cammino di una costruzione terribile e meravigliosa. Otro mundo, uno donde quepan todos los mundos. Supponiamo, senza ammetterlo, che voi, come i Chol, abbiate avuto la sfortuna di nascere e vivere vicino alla proprietà di un uomo potente. Supponiamo, senza ammetterlo, che il suo nome e la sua firma sia José Díaz Gómez e che sia prigioniero in un carcere del Chiapas con l'accusa di essere un Chol e di essere uno zapatista. Ora, cambiando canale, supponiamo di avere accesso a ciò che viene detto nei tribunali, nelle stazioni di polizia e nelle prigioni del Chiapas. Non è senza imbarazzo che si sente dire: è uno zapatista, uno di quelli che criticano e non appoggiano il presidente. Il capo sarà contento che stiamo ponendo uno dei conservatori che rifiutano di essere salvati dalla modernità e dal progresso, cioè le 4T. Ora, supponiamo, senza ammetterlo, che la vostra libertà, Chol e zapatista, dipenda da molteplici fattori: l'umore del giudice quel giorno, il pubblico ministero, la polizia, gli altri finqueros, cioè oltre a quello che ha la sua finca a Palenque, il bisogno degli omini grigi ingraziarsi superiori che nemmeno sanno che esistono. Supponiamo che sappiate che un'organizzazione non governativa per i diritti umani, una di quelle tanto vilipese dalla Corte Suprema, insieme a collaboratori pagati dai media, abbia dimostrato la vostra innocenza e che la parte accusatrice non possa nemmeno presentare la minima prova contro la vostra libertà e quella di altri vostri compagni perseguitati. Ma è inutile, perché non siete innocenti dei due crimini per i quali sei stato imprigionato per quasi 2 anni. Essere indigeno e zapatista. Ora, supponiamo che vi rechiate contemporaneamente allo Zocalo di Città del Messico e contempliate una struttura in ferro e cartongesso che, si presume, sia una replica di una piramide del popolo dei Maya. Supponiamo, senza ammetterlo, che poi riflettiate e concludiate che questo è ciò che è l'indigenismo in Messico, una simulazione di cartongesso come tributo a un passato lontano e manipolabile nella storiografia ufficiale, e migliaia di ingiustizie amministrate dal governo in carica contro i popoli nativi del presente. Per i governi, i popoli indigeni sono la materia prima per la loro fabbrica di alibi storici e di colpevoli. Ora, supponiamo, senza ammetterlo, che lei sia stato incaricato, date le sue capacità e soprattutto il fatto che non è un ciolza palista, di tenere una lectio magistralis alla scuola quadri del partito, intitolata La rivoluzione delle coscienze nella quarta trasformazione. Vi sentireste male, almeno a disagio, fuori luogo? Come la maggior parte dei vostri corregionali, vi direste è tutto per il bene del movimento e perché l'estrema destra non torni. I zapatisti hanno avuto il loro momento, ma sono passati di moda? Quindi concludereste che, se non fosse indigeno, se non fosse zapatista e se non fosse critico nei confronti del governo al potere, sarebbe libero e non avrebbe perso 2 anni della sua vita? Naturalmente, tutto questo supponendo, senza ammetterlo, che abbiate immaginazione, sensibilità e senso della giustizia. E, naturalmente, che non siate un furfante o una furfante, senza dimenticare la parità di genere. Bene. Salute e smettete di guardare in alto. La lotta per la verità è in basso. Dalle montagne del sud-est messicano, il capitano. Post scriptum. Tutti i sistemi giudiziari moderni sono irriformabili. Si basano su un assunto che viene quotidianamente contraddetto dalla realtà. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. E no, perché chi paga comanda. Thank you. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, Radio Plaza ritorna qui in diretta da Piazza Municipio Marigliano. Oggi è il 9 novembre 2095. Mi trovo bene? Ti trovi benissimo. Io ti vedo proprio benissimo. Perfetto, sì. Va bene, allora, siamo quasi alla fine di questa puntata. Insomma, più o meno, non ve ne andate ancora. Dicevo, siamo quasi alla fine di questa puntata. Ma non è proprio vero. Non è finita, non è finita. La guerra non è finita. Questa è poco ma sicura. Un po' più di brillantezza, sì, è possibile, grazie. E comunque il brano che abbiamo ascoltato adesso, ritorniamo un attimo alla nostra programmazione, si sentivano delle influenze orientali, si sentì un po' di Oriente in quel ritmo londinese. Dove? In quale? God of Bangalore di Wyclef Zimbel dall'album Sagra del 2024, roba nuova, eh? Eh sì, ultimamente abbiamo notato che Radio Plaza va verso il 2000 e dopo, invece che il 1900 e prima. Dai 2000 in poi, bella musica, quindi God of Bangalore era quel brano che abbiamo ascoltato prima, sotto di noi... Incident at Nashapur, Santana, sotto di noi Santana, sopra di noi il cielo azzurro, non tanto, oggi è un po' grigio qui. Ma non piove. A Marigliano in provincia di Napoli, qui in Italia. E quindi passiamo alle conclusioni. Okay, passiamo alle conclusioni. Arriviamo non alle di conclusioni. Radio Plaza, non di questa puntata, ma alle conclusioni dell'incontro internazionale zapatista Algunas partes del todo, lo avevamo accennato ad inizio di puntata, e quindi c'è un articolo che descrive la conclusione dell'incontro internazionale di condivisione dal titolo Algunas partes del todo, tenutosi presso il semigliero Comandante Ramona Caracol di Morelia dal 2 al 16 agosto del 2025, come parte degli Encuentros de Resistencias y Rebeldías lanciati dall'organizzazione zapatista. L'evento ha registrato la presenza di 2.748 persone, più della metà venivano dalle basi d'appoggio zapatiste, provenienti da 45 paesi e centinaia di collettivi. Ci sono state oltre 200 presentazioni di pratiche di resistenza con un chiaro filo conduttore anticapitalista. E le pratiche spaziavano da collettivi culturali ambientalisti, inclusi quelli che usano il boicottaggio, il sabotaggio, a sindacati, palestre popolari, occupazioni abitative con circuiti di economia comunitaria non capitalista. E il nome, alcune parti del tutto, rifletteva proprio la diversità delle lotte. L'intervento zapatista si è concentrato anche su un'autocritica cruda, espressa tramite un'opera teatrale delle nuove generazioni, riguardo ai problemi del loro governo autonomo nei primi 30 anni, finalizzata a spiegare e a responsabilizzare la base sull'importanza del cambiamento. La risposta zapatista alla tormenta capitalista e alle inefficienze interne è riassunta in un unico concetto, il comun collettivismo. Ebbene, il comune si manifesta in tre aspetti fondamentali, vediamoli uno alla volta. Nuova organizzazione di governo si traduce nell'abbattimento della piramide, eliminando sovrastrutture rappresentative con potere decisionale, come giunte di buon governo e municipi autonomi. L'unico organo decisionale e di governo diventa l'assemblea comunitaria, cioè il governo autonomo locale, responsabilizzando ogni comunità per le proprie necessità, salute, educazione, giustizia, produzione e per il coordinamento orizzontale. E poi la proprietà della terra. Vediamo la proprietà della terra. La terra è di chi la lavora, ma non come proprietà individuale, si è solo guardiani di essa. Questa è la risposta all'individualismo e alla privatizzazione capitalista. Oltre 200.000 ettari recuperati dagli zapatisti saranno a disposizione anche dei non zapatisti, che sanno o vogliono lavorarla, come processo di apertura e costruzione. E poi c'è salute e costruzione collettiva. Il progetto di un ospedale vicino al Caracol di Dolores Hidalgo è concepito come bene comune per tutta la popolazione. La costruzione e l'utilizzo si basano sulla condivisione dei saperi e delle competenze, anche non certificate, attraverso la solidarietà attiva, superando l'inaccessibilità economica imposta dal capitalismo. L'alternativa e la risposta alle mancanze del malgoverno sono compito di tutti. Il subcomandante Moisés ha incentrato il discorso di chiusura sulla solidarietà, anche in riferimento alla questione palestinese, identificando tre livelli. Il primo è un livello emergenziale, fornire cibo e medicine. Poi il livello di pressione attiva, attuare proteste politiche, manifestazioni, blocchi, occupazioni per garantire che i beni arrivino a destinazione. E poi il livello fondamentale, la lotta organizzata nei propri territori contro il mostro a molte teste, l'idra del capitalismo. Non basta tagliare una testa, il modo per sconfiggerlo è costruire attivamente autonomia e alternativa in tutti i territori. In sintesi, l'incontro sottolinea che la vera solidarietà è la costruzione collettiva di un'alternativa e di una visione e azione comune contro il capitalismo, iniziando fin da ora a costruire il mondo migliore desiderato. Make this night love will tu devi andare via? Ma potrei anche restare. Vabbè, allora andiamo verso la chiusura di questa puntata, siamo d'accordo? Siamo abbastanza d'accordo, non ci piace mai chiudere, ma dobbiamo farlo. No, bisogna chiudere ogni tanto, se non si chiude non si può riaprire, no? Ah, allora chiudiamo per riaprire. E quindi chiudiamo questo governo per riaprire una nuova era, magari zapatista in di Italia. Autogoverno, no? Italia, dal basso. Viva l'Italia zapatista, potremmo urlare un giorno o l'altro, magari. Vabbè, era sì. Kippi Orchimi, quella che abbiamo ascoltato, il brano poco fa di Heard, dall'album Moving On del 2004. E questa invece è Radio Plaza. Radio Plaza oggi è stata sempre dalla stessa parte, in piazza Municipio a Marigliano. Radio Plaza oggi 9 novembre 2025, una nuova puntata di Radio Plaza dal titolo Palestina Chiapas, resistenze e esistenze parallele. Ogni lotta aiuta un'altra lotta. Radio Plaza dal vero e su collettivoutopia.noblogs.org. Mi sento fulminato dagli occhi di qualcuno in questo momento, diciamo, però andiamo avanti, quindi andiamo, ringraziamo tutte le persone che sono intervenute, che hanno partecipato oggi a Radio Plaza. Voci note, voci vicine, voci nuove, ringraziamole tutte, perché come ogni volta è sempre bellissimo. Voci, note, parole e arrangiamenti, no? E tanta buona musica su Radio Plaza. Sì, allora ringraziamo Mauro, l'hai ringraziato. Lo ringraziamo ancora, grazie Mauro del BDS di Napoli. Sì, BDS di Napoli. Ripetiamo l'indirizzo email di BDS Napoli. bdsnapoli@ik.me. Più o meno, vabbè, BDS, ma si trova Napoli, BDS chiocciola. Napoli. @ik.me. Questo è l'indirizzo. Questo è l'indirizzo di BDS Napoli, ma ne sentirete ancora parlare qui dai microfoni di Radio Plaza. Sì. Intanto, questa salutiamo veramente. Salutiamo con l'ultimo brano in scaletta di oggi. È un brano dell'Heritage Orchestra, un'orchestra britannica fondata da Chris Wheeler e Jules Brackley. Eseguono musica tradizionale di culto, sperimentale, popolare, e l'orchestra oscilla tra i 25 e i 65 membri, quelli che mi piacerebbe avere qui a Radio Plaza in ogni puntata. Magari in piazza per il primo maggio che arriverà, anche quest'anno ovviamente, primo maggio, occhio all'ingranaggio, così gliela allazzo dentro così per promemoria. Questa è Radio Plaza, la puntata è finita, ringraziamo me, anche me, anche lui, anche loro, ci siamo tutte, e grazie a tutte, buon ascolto, ciao. Ciao. these days. You passed the walls like